sofferenza è quella che in realtà che ti spezza pure la tua identità. Ogni volta che tu sfuggi la violenza c'è un dolore che esplode nella testa. Sofferenza di volere a tutti i costi la felicità che pensi sia la guerra in verità, ma ti accorgi che in duello non può nulla contro la paura di restare solo al mondo e guardare il male intorno. E allora che capisci, arrabbiarsi senza rischi è una favola dei ricchi, dei potenti, dei vili, e si volgono a disprezzo per vedere il successo. Ma un giorno ci si sveglia nella notte, quella buia dove niente dà conforto, scoprendo che ogni anima è uguale se ai conti con la malattia e il lutto. Eppure questa cruda sofferenza cosa mai potrà cambiare la mia storia? E allora sì, dolce capire che poi l'uomo a renderla gentile. Crederò con una forza che non so dovrò trovare, ma so già che io, Ignazio, per la vita voglio lottare. Chiamerò il sole in cielo, chiederò che faccia respiro a quell'alito che manca nel mio dire tutto confuso. Vado a prendere uno specchio per guardare il mio riflesso, abbassare il mio sguardo e a chiedermi chi è questo. Come faccio a ritrovare me perduto, se mi chiedo come farò a sopportare tutto questo.